il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Domenica scorsa si è celebrato il terzo congresso di ACLI Terra Provinciale di Padova, l'organizzazione professionale agricola delle ACLI, l'Associazione Cristiani e Lavoratori Italiani. Si tratta di un'associazione oggi forse poco nota, ma in realtà è una delle prime nate a livello nazionale ed è in crescita. Per la prima volta l'abbiamo ospite al quadrifoglio. È con noi infatti oggi il presidente Mariano Zin, con il quale vogliamo approfondire gli scopi di ACLI Terra e i suoi progetti futuri. Partirei proprio dal titolo del congresso, La terra alimenta il futuro, risorse e valori di un mondo rurale che cambia. Mi sembra che faccia riferimento al fatto che la terra stia riscoprendo proprio oggi il suo valore centrale nella storia e nell'economia umana, un valore che forse era ben chiaro in passato ma che era stato un po' messo da parte in questi ultimi anni. È questo un po' il nodo centrale? Sì, senz'altro. Noi abbiamo scelto questo titolo perché è un titolo altamente evocativo e anche molto significativo. La terra veramente alimenta una speranza di futuro, secondo noi, ed è un elemento questo importante, perché insieme con il mondo del lavoro, con il mondo dell'agricoltura, dobbiamo veramente coltivare una risposta. Una risposta che ci consenta di avere una certezza di benessere per le nostre famiglie, di rendere credibile lo sviluppo e la sostenibilità del nostro settore, che è attraversato anch'esso naturalmente, come tutti i settori, da una crisi importante. Però questo settore può essere una garanzia sicura per l'ambiente, per la sicurezza alimentare, per un equilibrato sviluppo di quello che è anche l'assetto territoriale, il paesaggio e dopo alla fine il contesto e il tessuto sociale delle nostre comunità. Quindi veramente è una... noi pensiamo che l'agricoltura, che dalla terra, insomma, ci siano delle risposte di futuro per tutti. Ecco, ACLI Terra, facendo parte un po' del mondo delle ACLI, ha come primo punto il tema del lavoro, però oltre anche alla professionalità del sostegno degli agricoltori, puntate molto sul ruolo sociale e sulla valenza ambientale connaturate al valore agricolo. Si riesce nell'economia agricola di oggi a riscoprire e valorizzare anche questi punti? È senz'altro, oggi si parla molto in agricoltura di multifunzionalità, l'agricoltura appunto produce alimenti, produce quindi sostegno e sostentamento per le popolazioni, ma non solo, appunto ricordavamo prima, garantisce una tutela del territorio, in qualche modo attraverso la presenza nei contesti appunto delle comunità locali, garantisce la presenza di tradizioni, porta anche innovazioni, quindi da un certo punto di vista sostanzialmente garantisce anche un equilibrio sociale importante all'interno delle comunità. Noi la chiamiamo, dobbiamo andare alla riscoperta della ruralità dei territori e dei contesti anche urbani. Perché attraverso la riscoperta della ruralità, che vuol dire un po' un ritorno anche alle origini, ma alle radici delle nostre comunità, pensiamo di ritrovare i valori importanti come la solidarietà e fraternità, che sono comunque dei valori che permeano anche la nostra esperienza associativa. Voi parlate anche di welfare rurale, cosa significa questo? Ma welfare rurale è un grande capitolo di una dell'esigenza che tutte le imprese, che tutti i cittadini siano praticamente messi, che godano di pari opportunità. Non sempre questo oggi succede, il settore primario, il settore agricolo in qualche modo a volte può essere più penalizzato di altri, proprio perché magari in alcuni territori alcuni servizi non arrivano, alcune situazioni non si riescono a concretizzare e allora bisogna appunto che anche la politica regionale, la politica nazionale e comunitaria assuma proprio questa priorità, che bisogna dare a tutti pari opportunità. Faccio un esempio banale se volete, però insomma può rendere l'idea. Il discorso delle autostrade digitali. Noi sappiamo che per un'impresa oggi è importante riuscire a competere, riuscire a collocarsi attraverso il web, la rete internet, collocarsi su un mercato più grande, che è un mercato nazionale anche a volte. Però se queste autostrade non ci sono, se manca la banda larga, per capirci, questa cosa non può avvenire. Credo che questo è un esempio, diciamo, dove dobbiamo creare pari opportunità. Non possono esserci aziende di serie A e di serie B o C o Z, dobbiamo cercare di dare a tutti questa opportunità, per esempio tipo la banda larga, che è una condizione di sviluppo per tutte queste aziende, specialmente per le aziende dei giovani che ci sono. Anche noi all'interno della nostra organizzazione abbiamo dei giovani che vogliono investire in agricoltura, investire nel biologico, investire in una produzione certificata, però magari a volte manca sul territorio queste infrastrutture che non gli consentono di sviluppare questo. Bene, ci fermiamo qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's so good now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet. Sunlight, torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di Acliterra e lo stiamo facendo con il presidente uscente Mariano Zin. Acliterra non si occupa solo di lavoro di lavoratori agricoli, ma cerca anche di diventare un soggetto attivo di economia civile e per questo nel 2013 ha avviato una iniziativa interessante che si chiama City and Farm, orti sociali urbani. Di cosa si tratta? Sì, o meglio, il marchio City and Farm contiene anche questa iniziativa importante che sugli orti urbani ed è un'iniziativa che vuole cercare di collegare la campagna alla città sostanzialmente, ecco, banalmente, ma offrendo varie possibilità. Una di queste è il discorso degli orti urbani. Questo discorso l'abbiamo fatto, è stato un po' promosso dal nostro comitato provinciale abbiamo avviato una sperimentazione che vuole essere un po' una sperimentazione pilota per cercare poi di replicare anche in altre zone questo. Però diventa questi orti che noi abbiamo, con cui siamo partiti in un quartiere di Padova, si sono realizzati su un terreno che è proprietà di un nostro socio. Quindi non sono gli orti, per così dire, sociali messi a disposizione dal comune. In questo caso è un socio, un nostro agricoltore, che mette a disposizione questo terreno e all'interno di questo terreno si sono realizzati 30 appezzamenti a orto che vengono coltivati da soci. Praticamente sono cittadini, consumatori che diventano soci di Acliterra per coltivare questi orti, naturalmente avvicinandosi alla terra, all'ambiente, alla produzione biologica, alla produzione diretta di ortaggi per l'autoconsumo. E l'esperienza è stata, questa prima esperienza che abbiamo avviato durante questo anno è stata molto positiva, soprattutto perché ha creato anche dei legami importanti fra le persone che hanno frequentato, fra giovani e anziani. Veramente il valore aggiunto per chi ha partecipato a questa cosa è stato quello di naturalmente avere dei prodotti di autoconsumo, senz'altro quindi essersi coltivato direttamente il prodotto, certamente delle relazioni che sono state importanti e quindi la cosa è andata molto bene. Per l'azienda agricola naturalmente una integrazione di reddito che non, su quel terreno non sarebbe mai potuta arrivare attraverso una cultura tradizionale. Quindi è un'esperienza importante e cercheremo di replicarla anche in altre realtà. Grazie Mariano Zin, ci sarebbero stati molti altri argomenti che avremmo voluto affrontare, però il nostro tempo è terminato, passiamo adesso ad alcune notizie. La Giunta regionale Veneta ha approvato il provvedimento per finanziare con 8 milioni di euro nuovi interventi di formazione e consulenza aziendale per gli operatori dello sviluppo rurale e promozione dei prodotti agricoli. Dopo le modifiche apportate dalla quarta commissione del Consiglio regionale e la successiva approvazione, è arrivato quindi il via libera definitivo della Giunta per l'apertura dei termini dei nuovi bandi delle misure 111, 114, 133 e 331 del programma di sviluppo rurale. Parliamo adesso di PAC. Con il passaggio in Parlamento europeo nella sessione plenaria di Strasburgo, in programma proprio in questi giorni dal 18 al 21 ottobre, si chiude il lungo e travagliato iter di riforma della politica agricola comune post 2014. La Commissione europea dovrà ora redigere i regolamenti di riferimento riguardanti i pagamenti diretti, l'organizzazione comune di mercato unica OCM, lo sviluppo rurale e un regolamento orizzontale sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC. Sempre in tema di politica agricola comune, lo sportello Europe Direct Veneto sta ultimando una pubblicazione interamente dedicata alla riforma della PAC 2014-2020. Il quaderno analizzerà la riforma in tutti i suoi aspetti, proponendosi come pratico strumento informativo e allo stesso tempo didattico per addetti ai lavori, ma non solo. La pubblicazione può già essere richiesta gratuitamente inviando una mail a europedirect@venetoagricoltura.org indicando nell'oggetto richiesta quaderno 15 PAC. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il Quadrifoglio. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato? Il Quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita.